certi, o facile andare via solo perché siamo diversi. Tanti piani per il futuro che passano avanti, sbaglio un calendario con i fogli bianchi. Thank you.